con la regista Francesca Ligi per presentare il suo film L'uomo con la lanterna, che sarà presentato a Roma allo spazio Apollo 11 in una proiezione e incontro con l'autrice mercoledì 20 marzo 2019. Francesca, ben trovata. Bentrovati anche voi, grazie per avermi chiamato. Raccontiamolo brevemente. Dunque, brevemente posso dire che L'uomo con la lanterna racconta la storia di. Io cerco di raccontare la storia di uno zio che ha vissuto in Cina dal 1924 al 1935, che però io non ho conosciuto, che in qualche modo però ha accompagnato la mia vita fino adesso, insomma, e quindi. I suoi oggetti, le cose che lui aveva portato dalla Cina, che sono arrivate in casa mia quando io ero molto piccola, avevo 4 anni, quando sono arrivate, hanno sempre avuto un po' un fascino per me. Quindi l'idea di quest'uomo che aveva viaggiato in anni in cui viaggiare era abbastanza difficile, perché per esempio lui il primo viaggio che ha fatto in Cina ha durato 53 giorni, quindi insomma passando per il canale di Suez, era stato molto avventuroso. Comunque il fatto che un uomo così avesse portato dalla Cina tanti oggetti, tante foto, tante pellicole, il girato dell'Africa e della Cina degli anni 30, insomma, ha tenuto sempre viva la mia immaginazione. Quindi a un certo punto, dopo che per vari casi della vita io sono riuscita a pensare di poter realizzare un film, ho iniziato anche a pensare come potevo raccontare la sua storia. E la sua storia in realtà la potevo raccontare solo immaginando cosa potesse essere stata la sua vita e come mai fosse così importante per me raccontare la storia di un uomo che in realtà non avevo mai conosciuto. Quindi il film racconta un po' l'intreccio della sua vita, così insomma in qualche modo ipotizzata, immaginata, e che tipo di intreccio c'è stato con la mia. Ecco, nella scrittura ti sei avvalsa della collaborazione di Wuming 2. Ci racconti un po' questo passaggio? La collaborazione con Wuming 2 per la scrittura della sceneggiatura è nata dal fatto che questa storia di quest'uomo, che in realtà aveva avuto una vita non particolarmente eroica o piena di chissà quali azioni o gesta fantastiche, però quello che capivo man mano che studiavo il suo materiale era che si intrecciava con la storia, con la S maiuscola. Quindi a un certo punto sia io che il produttore Claudio Giapponesi della Kinè abbiamo pensato che Vomin 2 potesse essere la persona proprio adatta per aiutarci a tessere una trama che fa il personale, la storia di Mario Garau, che era un impiegato della Banca Italiana per la Cina, è la storia delle concessioni internazionali sia a Tianjin che a Shanghai, dove mio zio aveva vissuto, che Wuming potesse essere la persona che maggiormente poteva darci aiuto e sostegno e inventiva, capacità e tutto. Quindi il lavoro con lui è stato molto, molto importante, perché appunto essendo così bravo con gli archivi, così capace di tessere storie che passano dalla S maiuscola alla S minuscola, già ormai per sua, diciamo, principale attitudine, competenza, preferenza, questa storia con mio zio con la lanterna aveva proprio necessità di una svolta anche in quella direzione. Quindi così è nato. Wuming poi sta a Bologna, il mio produttore è di Bologna, quindi insomma avevano già lavorato insieme, è stato un po' più semplice. Su cosa avete voluto centrare il racconto? Diciamo un po' su come la vita di un uomo può intrecciarsi, qualunque uomo qualunque può intrecciarsi poi comunque con la storia dell'umanità. È un po' sulla costruzione dell'identità personale, no? Un po' che cosa succede quando qualcuno che magari anche non conosci diventa così importante per la tua vita, perché comunque questa storia nel film lo racconto, è stata molto presente nella mia vita, sia per le sue assenze che per le sue presenze. Quindi questa alla alla fine un po' forse è che cosa succede se si dà retta al motivo per cui un nostro interesse rimane vivo e se si segue il motivo per il quale rimane vivo. Questa è stata un po' la direzione. Cosa ti ha affascinato maggiormente nei materiali che hai raccolto di tuo zio? Moltissimo le sue fotografie, perché sono delle foto molto belle, fatte da un amatore, non era un professionista, e poi molto anche i filmati, perché soprattutto l'Africa di quegli anni, lui filma in un modo molto speciale, nonostante appunto fosse uno che non era un professionista, aveva un occhio, uno sguardo che diventano importanti, si capisce che aveva uno sguardo particolare, quindi quell'Africa di quegli anni ho faticato molto insomma a dover tagliare, perché ovviamente i filmati dell'Africa, quando entra nei villaggi dei pigmei, fa delle panoramiche incredibili sulle persone che vivono in questi villaggi, e poi si mette alla fine un uomo altissimo per farci vedere con una panoramica orizzontale, sembrano un po' filmati degli antropologi di quegli anni, insomma un po' la possibilità di vedere una Cina e un'Africa molto molto speciale, con uno sguardo speciale. Che percorso farà il tuo film? È un percorso abbastanza anomalo, perché appunto essendo un documentario, poi alla fine non abbiamo ancora distributori, quindi insomma avrà il cammino che non so bene, sta camminando però dall'anno scorso, da quando ha preso il premio Corso Salani a Trieste l'anno scorso, poi ultimamente abbiamo avuto un invito all'Italian Doc di Bruxelles, abbiamo vinto il premio della giuria, quindi sta camminando con un'onda lunga abbastanza interessante, lo stanno invitando nelle università, ho fatto Lecce, domattina farò la Sapienza di Roma, c'è qualcosa che si sta muovendo come interesse intorno a questo film, perché forse un po' perché racconta una storia un po' sconosciuta, perché che cosa facessimo noi italiani insieme ai francesi, gli inglesi, i tedeschi in Cina in quegli anni, è una storia che si conosce poco, è una sorta di colonialismo un po' di cui si è parlato poco, e quindi forse questa sta chiamando un po' di interesse, ecco, sta creando un po' di interesse questa storia. Quindi adesso vediamo come proseguirà, speriamo che abbia una vita ancora lunga. Ecco, per seguirlo ci lasci dei riferimenti internet? Sì, c'è Doc Kine, che è il sito della società di produzione, e poi c'è la pagina Facebook L'Uomo con la Lanterna. Benissimo. Allora, ricordiamo l'appuntamento a Roma, allo Spazio Apollo 11, mercoledì 20 marzo 2019, con il film L'Uomo con la Lanterna, proiezione e incontro con la regista Francesca Ligi. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie mille, a risentirci.